Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Per me oggi comincia un percorso che vorrei coinvolgesse ciascuno di voi, non solo il Presidente, ma anche chi è seduto in penultima fila là in fondo e può seguire con interesse Salvini che manda il talk show e che non si occupa solo di Rom e di immigrati, perché vi posso dire che dal mio punto di vista per il futuro dell'Italia il problema dei Rom è in fondo, ma proprio in fondo alla scaletta delle emergenze e delle urgenze. Vorrei che mio figlio, che ha 12 anni, potesse lavorare se volesse fare impresa qua. Questo, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, l'avete naturalmente riconosciuto, il leader della Lega Matteo Salvini, che oggi era a Santa Margherita Ligure all'assemblea dei giovani confindustriali e diceva, cioè, sporchiamoci le mani insieme, lavoriamo insieme. Avete sentito che però quello che era il suo cavallo di battaglia in realtà nella campagna elettorale, che è durata fino praticamente a domenica scorsa, sabato scorso, ha detto invece in questo caso i Rom e i campi Rom sono in fondo alle priorità dell'Italia, ben quattro in fondo, deve aver cambiato un pochino idea. Comunque insomma lui è andato con le sue buone intenzioni al meeting di Santa Margherita Ligure e appunto ha detto abbiamo un confronto, lavoriamo insieme, ma pare che il colpo di fulmine con i giovani confindustriali non vi sia stato. Però al di là di questo, torneremo a occuparci questa sera a effetto notte naturalmente di Mafia Capitale, ne abbiamo parlato molto ieri, visto che era scoppiato ieri il secondo bubone, stasera di nuovo parleremo di questa nuova ondata dell'inchiesta in cui fra gli altri, fra i politici, ha indagato anche un sottosegretario del governo Renzi, che è il sottosegretario dell'agricoltura Castiglione, che sarà, dovremo raggiungerlo qui effetto notte, sarà ospite qui più tardi, tra poco insomma, dopo che vi faccio il riassunto della giornata. Parleremo di molti altri temi e faremo anche un punto della politica, naturalmente c'è la vigilia della finalissima di Champions League, insomma un sacco di cose. Io come sempre inizio col raccontarvi in sintesi la giornata. Mafia Capitale, nel nuovo capitolo dell'inchiesta indagato anche il sottosegretario all'agricoltura Castiglione, che sarà ospite qui effetto notte. Mattarella all'Expo dice la lotta alla corruzione deve essere severa. Grecia, i timori sul rimborso di Atene al Fondo Monetario Internazionale affondano le borse e Schulz, presidente del Parlamento Europeo, commenta ne ho le scatole piene. Milan è ufficiale, Berlusconi cede il 48% e il thailandese Mr. Bima resta presidente. I giovani di Confindustria al governo dicono coinvolgeteci per creare sviluppo, non solo per le tasse. Iraq, è morto in carcere Tareq Aziz, fu numero 2 di Saddam Hussein, era ministro cristiano che fu condannato per crimini contro l'umanità. La vicenda di Malala, il Pakistan rimette in libertà 8 dei 10 aggressori della giovanissima studentessa diventata premio Nobel e la stampa britannica svela la condanna era finta, in realtà furono assolti. Roma, incidente nella metro, scontro tra due treni, 21 feriti, è stato un errore umano. E per il calcio, vi dicevo, vigilia di Champions per la Juve a Berlino, il Barcellona, dicono dalla Juventus, resta favorito ma non è imbattibile. Mi schiarisco un po' la voce, ancora questi strascichi di bronchite, prima di partire adesso proprio col sunto della giornata. E vi ricordo che ci sono sempre i vostri due canali di interazione con Effetto Notte tutte le sere, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che in realtà è sempre lì per voi in qualsiasi ora del giorno e della notte, e poi c'è il numero per gli SMS, che è il 349-238-6666, se volete commentare man mano quello che si racconta di questa giornata. Partiamo quindi dalla vicenda che è sempre in cima alle vicende italiane, l'inchiesta appunto su Mafia Capitale. Tra i politici indagati c'è anche il sottosegretario del nuovo centrodestra Giuseppe Castiglione, che vi dicevo tra poco raggiungeremo, e sull'inchiesta c'è anche l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella. Si allarga la lista dei politici coinvolti nel business dei migranti sul quale aveva allungato le sue mani Mafia Capitale. A Catania è stato indagato per turbativa d'asta il sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione. L'esponente di NCD è coinvolto nell'indagine sulla gestione del CARA di Mineo, il centro di accoglienza finito anche nell'inchiesta sul Mondo di Mezzo, per il ruolo svolto dall'ex capo gabinetto di Veltroni, Luca Odeven. Castiglione si difende, nega ogni addebito e oggi oggi si è messo a disposizione degli inquirenti. Nel carcere romano di Regina Coeli sono iniziati intanto gli interrogatori di garanzia delle persone arrestate ieri. Il primo a rispondere al GIP, Flavia Costantini, è stato l'ex presidente dell'Assemblea Comunale, il democratico Mirko Coratti, che ha negato di aver ricevuto soldi da Salvatore Buzzi. Interrogato anche l'ex assessore Daniele Ozzimo, i suoi rapporti con Buzzi erano soltanto di natura politica, ha spiegato il suo legale Danilo Leva. Buzzi era un iscritto al suo circolo da diversi anni, cioè né più né meno. Gli interrogatori proseguiranno anche domani, ma nel carcere di Rebibbia, dove sono finiti gli indagati ai quali viene contestato il reato di associazione mafiosa, come Luca Gramazio, ex capogruppo di Forza Italia in Regione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In una giornata nervosa dove fioccano querele, il monito del Capo dello Stato giunge inflessibile dall'Expo. Sergio Mattarella lancia un appello al bene comune dopo la nuova ondata di arresti su Mafia Capitale. Dobbiamo recuperare appieno, pur nel confronto a volte acceso, il senso del bene comune. E dobbiamo sapere che esso si fonda sulla legalità, sulla trasparenza. Il contrasto alla corruzione deve essere severo, nel nome del diritto e della libertà che la corruzione sottrae a ciascuno di noi. Luigi Di Maio querela intanto Matteo Orfini, mentre Giorgia Meloni Ignazio Marino. Ma nel frattempo il governo, pur se non rischia, si preoccupa. Il ministro della giustizia Andrea Orlando. È una brutta pagina, è una tegola in generale, credo, per la politica e per le istituzioni. Bisogna reagire con degli interventi normativi come quelli che sono stati recentemente approvati. Il leader della Lega Matteo Salvini continua a chiedere le dimissioni del sindaco capitolino. Penso che Marino sia una persona onesta, ma assolutamente inadatta a governare una città grossa, difficile e stupenda come Roma. Quindi, e spero che sia finita la mangiatoia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi l'appello dei giovani imprenditori alla Presidente del Consiglio Renzi affinché li coinvolga per creare politiche per il Paese, dicono, non solo sulle tasse. Arriva questo appello da Santa Margherita Ligure, dove si sono riuniti i giovani di Confindustria. Va subito al punto nel suo intervento di apertura il presidente dei giovani industriali Marco Gai e inquadra il messaggio: siamo cittadini e quindi politici, facendolo precedere dalla lettera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo un lungo e sofferto periodo di crisi, segnali incoraggianti indicano che l'Italia torna a crescere. Sottolinea poi come questa inversione di tendenza va sorretta e rafforzata con il contributo di tutti, degli imprenditori appunto. Marco Gai rilancia allora il ruolo degli industriali, che non devono fare solo gli imprenditori, perché rivendicano un ruolo sociale e non vogliono fare solo profitto e solo pagare le tasse. Sia chiaro, molto chiaro, non ci interessa scendere in campo, perché il nostro campo non è l'agone politico, ma l'agorà. E in quell'agorà, da imprenditori, vogliamo fare la nostra parte. Forse 13.000 imprenditori giovani non mobilitano tante persone in piazza come riescono a fare insegnanti o tassisti, ma hanno dalla loro la forza del lavoro, della passione e del capitale. E dopo aver premesso la sua approvazione per la via intrapresa con la legge di stabilità, in tema di tasse fa un appello al Premier Renzi: sfruttateci per le idee e non solo per le tasse. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Santa Margherita Ligure. E ora parliamo di calcio e business e anche in qualche modo politica. Insomma, Berlusconi ha raggiunto questo accordo con Mr. B, l'imprenditore thailandese B Teachball, e quindi venderebbe il 48, ha venduto il 48% del Milan per 480 milioni di euro. Il thailandese vuole la maggioranza di 2 anni, adesso si vedrà. Berlusconi intanto però rimane presidente, come ci conferma il nostro Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, è andata in porto allora questa operazione? Ciao, buonasera. Sì, tecnicamente è stato firmato oggi una sorta di accordo preliminare che dà alle parti, diciamo, uno spazio di 2 mesi nel quale concludere l'accordo secondo alcune linee guida che sono state definite, come tu ricordavi, appunto la cessione di un pacchetto di minoranza del 48% per 480 milioni. È evidente però che di fronte a una cifra così imponente il progetto dei nuovi soci non sarà quello di restare a guardare, quanto piuttosto quello poi di diventare in realtà i veri padroni del club, e questo avverrà attraverso poi una quotazione in borsa a Hong Kong o Singapore, si deve ancora decidere, in cui appunto saranno quotati i titoli del club rossonero, di un club rossonero si spera tornato in Champions e quindi di nuovo con un brand forte, in particolare in Asia, e a quel punto le carte si rimescoleranno e non è improbabile che i nuovi azionisti di maggioranza siano appunto i finanziatori di B, la nuova accordata, e quindi questo accordo firmato oggi potrebbe davvero segnare una svolta epocale dopo 30 anni di regno berlusconiano. Grazie Marco Bellinazzo. Ciao. Grazie Marco. A voi. Siamo adesso sulla Grecia, profondo rosso per la borsa di Atene dopo che la Grecia ha deciso di rimandare al 30 giugno il pagamento dei prestiti al Fondo Monetario Internazionale, che erano in scadenza oggi per 300 milioni di euro, e quelle dei prossimi giorni, nel tentativo di guadagnare tempo per trovare un accordo con i creditori internazionali. La decisione dimostra comunque, con questi tira e molla, quanto precari siano le condizioni finanziarie della Grecia e quanto ferme siano ancora le trattative. Rimaniamo all'estero. In Iraq è morto in carcere Tareq Aziz, che fu numero due di Saddam Hussein, ministro di religione cristiana. Era in prigione dal 2003 dopo l'arresto seguito all'invasione anglo-americana e alla caduta del regime. Nel 2010 fu condannato per crimini contro l'umanità, non venne giustiziato, il Vaticano anche chiese per lui la grazia, ed è morto adesso per un attacco di cuore. E c'è anche da parlare della vicenda di Malala. Il Pakistan rimette in libertà 8 dei 10 aggressori della ragazzina diventata premio Nobel per la pace, che all'epoca aveva 14 anni. Le spararono, vi ricordate, alla testa di ritorno da scuola dopo aver chiesto chi è Malala sul pullman della scuola. E il Daily Mirror, quotidiano inglese, rivela che la presunta condanna di quegli aggressori è stata in realtà una tattica per allontanare la pressione sul caso. Il mondo intero voleva giustizia per quel crimine, in realtà fu una condanna finta perché già allora furono assolti, quindi figuratevi, tutto un paese praticamente complice in questa cosa e che prende in giro anche la comunità internazionale. Comunque c'è anche da parlare della tragedia del Germanwings, perché i familiari di 30 delle vittime del disastro aereo del 24 marzo riceveranno i resti dei loro cari mercoledì prossimo. L'ho reso noto Lufthansa, che è proprietaria di Germanwings. Un volo trasporterà le reliquie da Marsiglia a Düsseldorf martedì e poi nelle prossime settimane saranno riportate tutte le vittime nei loro paesi. Di nuovo in Italia c'è il rapporto Istat sulla violenza sulle donne nel nostro paese, che è ancora molto forte e molto diffusa, ne parleremo più tardi. E poi c'è anche questa notizia che riguarda i detenuti in Italia, che per il 60% loro, il 60% dei detenuti fa uso di droghe, è emerso in un congresso a Cagliari. E pensate, non c'è molto da stupirsi che la nazione in testa per i detenuti che in carcere fanno uso di droghe è l'Olanda in Europa. Mare di casa nostra, ormai c'è voglia d'estate, Castiglione della Pescaia in Toscana si conferma regina dei mari italiani, primo posto secondo la guida Blu 2015 redatta da Legambiente Touring Club Italiano e presentata in mattina all'Expo di Milano. La bellezza del paesaggio e il turismo non bastano, perché la parola d'ordine per definire una spiaggia top è sostenibilità ambientale. Le cinque vele vanno anche quest'anno a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto, che si conferma al primo posto sul podio delle località balneari più belle d'Italia. San Vitolo Capo in Sicilia e Pollica vicino Salerno arrivano seconda e terza, dice la classifica di guida Blu 2015, redatta da Legambiente e Touring Club Italiano e presentata questa mattina all'Expo di Milano. 16 le località balneari premiate, 6 quelle lacustri, il Tirreno è anche quest'anno il mare più ricco di vele, mentre il Trentino Alto Adige è la regione regina per i suoi laghi. Siamo orgogliosi del premio ricevuto, dicono dallo stabilimento Le Cannucce di Castiglione della Pescaia, ma poco sembra essere cambiato in termini di nuovi clienti e di incremento del turismo. Questo pezzo di costa è sempre stato conosciuto per la bellezza dell'acqua, della spiaggia. In generale i clienti che venivano qui già sapevano che era un specchio d'acqua meraviglioso. Camilla Romana Bruno, Radio 24, il Sole 24 Ore. Per chiudere, il calcio a Berlino. Nel tardo pomeriggio la Juve ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della finale Champions League col Barcellona, che si gioca domani, e su questo poi ci aggiorneremo anche per capire l'atmosfera di attesa, la preparazione, quello che sta succedendo a Berlino per quanto riguarda la Juventus. Ora guardo brevemente i vostri messaggi prima di aggiornare chi sta viaggiando al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Allora, qualcuno, avendo sentito l'intro con Matteo Salvini all'Assemblea dei Giovani Confindustriali in Liguria, dice: Salvini essere fissato coi Rom, perché lì ha detto che in realtà è l'ultima delle sue priorità, delle sue emergenze. Un altro scrive: Salvini vuole 15-17% di tasse, flat tax, il colpo di fulmine arriva da chi non è di sinistra, perché dalle notizie si legge che non c'è stato colpo di fulmine con i giovani di Confindustria, dice, da chi è di sinistra, non è di sinistra, da chi vuol lavorare, non da chi riceve soldi dello Stato. Questo dallo Stato è l'accusa di un ascoltatore. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, stiamo cercando di raggiungere il sottosegretario Castiglione, che aveva risposto anche poco fa, oltre che oggi pomeriggio, quindi abbiamo fiducia di raggiungerlo. Tra poco parleremo con lui e poi faremo anche un punto sulla politica di questa settimana, anche questa non ha lasciato tempo alla noia, diciamo. Intanto vi ricordo ancora una volta, perché sapete che non tutti accendono la radio su Effetto Notte, su Radio 24, alle 21 puntualmente, quindi ogni tanto ricordo le notizie principali. Va avanti naturalmente l'inchiesta Mafia Capitale, indagato anche il sottosegretario Castiglione, e il presidente della Repubblica Mattarella oggi all'Expo ha detto: bisogna essere severi con i corrotti. Mentre il PD chiede al sindaco Marino di Roma di tagliare un po' di teste, Atene affonda le borse europee con i timori sul rimborso del Fondo Monetario Internazionale, che è stato rimandato al 30 giugno, mentre il presidente del Parlamento Europeo dice Schulz dice: ho le scatole piene di questa vicenda della Grecia. Salvini oggi dai giovani industriali a Santa Margherita Ligure ha detto: sporchiamoci le mani insieme, lavoriamo insieme, facciamo un confronto, però pare che sia gelo con gli imprenditori. E intanto i giovani imprenditori dicono a Renzi: sfruttate le nostre idee, non solo le nostre tasse. Scontro tra treni nella metro a Roma, 21 feriti, è stato per un errore umano. E poi, per quanto riguarda la vicenda Stamina, è stata bocciata dalla Cassazione perché il metodo, il sistema è pericoloso. La motivazione è che non è scientifico, quindi resta il sequestro delle infusioni. Svolta per il Milan, Mister B, una quota poco sotto il 50%, l'avete sentito, mentre la Juve a Berlino per domani per la finale. Morto in carcere Tarek Aziz, fu numero 2 di Saddam Hussein, morto di attacco cardiaco. E adesso, quindi, soffermiamoci nuovamente, come ieri abbiamo parlato diffusamente, della seconda puntata di Mafia Capitale. Ne abbiamo parlato con Lirio Abate, che è il giornalista dell'Espresso, che per primo, diciamo, ha alzato il velo su questa, sulla cupola romana, ha scoperchiato tutto il marcio che c'era sotto, queste dalle caratteristiche mafiose, questi intrecci tra faccendieri, criminali, imprenditori, politici, tutti che rispondevano al capo, ovvero Massimo Carminati, ex terrorista dei NAR. Quindi terrorista nero con legami con la banda della Magliana e con molte altre vicende nere, oscure, anche tragiche della storia italiana. Quindi una rete malavitosa, affaristica, concentrata soprattutto sul business dei migranti e che, come emerse da alcune intercettazioni, in questa cupola romana voleva mangiarsi Roma, letteralmente. Vi furono decine di arresti già a dicembre, un centinaio di indagati, compreso l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno per associazione mafiosa. In questi giorni, dicevo ieri, nuova ondata di arresti, di indagati, tra i quali anche un esponente del governo di Renzi, che è il sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione, che saluto e ringrazio di essere qui, visto che non è un momento facile sicuramente per lei. No, buonasera. Grazie a voi, ringrazio voi. Allora, lei è coinvolto in questa indagine, nelle carte di questa inchiesta, e soprattutto per essere in qualche modo legato, lei nel 2011 è stato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri soggetto attuatore per la gestione del CARA, cioè del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Mineo in Sicilia. Perché lei è in mezzo a queste carte giudiziarie? No, ma io penso che delle carte il mio ruolo sarà marginale, cioè la mia posizione sarà marginale, quindi avrò modo di chiarire con i magistrati, spero nel più breve tempo possibile. Mi ritrovo in quelle carte perché ho nominato da soggetto attuatore di un commissario delegato. Ricordo che l'emergenza protezione civile del 2011, chiamata emergenza Nord Africa, fu fatta con un commissario delegato, prefetto Gabrielli, e sui territori dei soggetti attuatori. Io ero presidente della provincia e presidente delle province italiane, fui nominato soggetto attuatore e nominai ad un tavolo tecnico la persona che tutti ritenevano la più autorevole, la più qualificata, che era in quel momento il direttore della Polizia Provinciale di Roma. Cioè Luca Odevine o Odevine. Esatto, il resto è cronaca e quindi da questo chiaramente in qualche colloquio parla di aver avuto dei contatti con me, ma è chiaro che li ha avuti perché io la ritenevo la persona più autorevole, più qualificata, addirittura gli avevo affidato i rapporti con il Ministero perché era da tutti riconosciuto, aveva svolto il ruolo di vice capo di gabinetto dell'amministrazione Veltroni, era il direttore di Zingaretti, quindi è chiaro che in questa tutto quel periodo non solo il commissario delegato era il prefetto Gabrielli, ma noi nel periodo nel 2011 tutti gli atti della mia amministrazione, del soggetto attuatore a cui facevo capo, cioè ero a capo io, a cui era a capo io in quell'anno, tutti gli atti erano addirittura preventivamente autorizzati dalla Corte dei Conti e successivamente registrati, mandati dalla Ragioneria Generale dello Stato, quindi una blindatura sul piano della procedura, della trasparenza. È chiaro che quando si parla dell'appalto dei 98 milioni di euro, io a quell'epoca non ero più il presidente della provincia, quindi sicuramente questo provoca lo stesso sconcerto che provoca a voi, per chi come me in due anni ha gestito con grande passione, con grande dedizione e soprattutto veramente abbiamo affrontato un'emergenza che non era facile affrontare. Io vorrei che tutti si riportassero a luglio del 2011. Non avevamo l'esperienza di oggi, l'esperienza di protezione civile, del flusso dei migranti, quindi l'abbiamo affrontato e quando il ministro Maroni requisì la struttura di Mineo e soprattutto chiese la nomina di un tavolo tecnico ai comuni, alle province e alle regioni, noi abbiamo offerto la nostra collaborazione. È chiaro che oggi ci sembra paradossale che da quella posizione politica venga un attacco sulla struttura, sul centro. Onorevole Castiglione, ricordo a chi ascolta, ascoltatrici e ascoltatori, che Luca Odevine, che è appunto in carcere già mi pare da dicembre, ex capo di gabinetto che ricordava lei di Veltroni quando era sindaco di Roma, è componente del tavolo di coordinamento nazionale per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Ecco. A un certo punto il ministro Maroni, siccome... No, ricordiamo che lui, mi perdoni, è in carcere per la gestione delle emergenze immigrati perché diciamo vendeva le proprie funzioni oltre che a Buzzi, che era l'uomo delle cooperative, la propria attività in cambio di stipendi mensili, spostava da un centro all'altro le persone, quindi insomma lucrando, lucrare sui migranti obiettivamente è quanto di più deplorevole, cioè, non so come definire. Ecco, e lei l'accusa, diciamo, nei suoi confronti sarebbe degli indagati, lei e altre cinque persone della Procura di Catania che svolge questa inchiesta un po' in parallelo con quella di Roma. L'ipotesi è questa: turbavano le gare di appalto per l'affidamento della gestione del CARA di Mineo nel 2011. Prorogavano reiteramente in modo ripetuto, quindi l'affidamento e prevedevano. Con me non c'è, sì, perché io poi dicembre 2012 finì la gestione emergenziale. Durante la mia gestione nel 2011 non solo la gara la ritengo di assoluta legittimità, cioè nell'agosto noi potevamo fare una procedura di urgenza, quindi avevo tutti i tempi abbreviati e invece ho fatto l'invito a tutte le imprese iscritte all'albo attraverso un'anticipazione via email, quindi sul piano procedurale addirittura la gara di dicembre, quella fatta da me, nella gara di dicembre abbiamo pure l'autorità per l'anticorruzione rispetto a un ricorso, si è addirittura anche pronunciata dicendo che bene aveva operato il soggetto attuatore. Quindi, onorevole Castiglione, ma mi dica una cosa. Poi quando si parla della gara del 2014, io non ero più presidente della provincia e quindi Lei è stato già citato nell'inchiesta di dicembre, nella prima ondata, no? E adesso nuovamente, ma le è arrivato un avviso di garanzia qualcosa, questa cosa? No, c'è un'indagine, ritengo che l'indagine debba essere rigorosa, molto dura, e quindi oggi ho appreso dalla stampa che c'è un'indagine in corso, perché quando a dicembre non era stata fatta nessuna citazione, ho chiesto alla procura di Catania di Caltagirone se c'era un'indagine a mio carico e mi è stato risposto di no. Oggi apprendo dalla stampa che c'è un'indagine ben venga l'indagine, che sia molto rigorosa, che colpisca coloro che c'è. Coloro che hanno perpetrato esempi di corruzione, di corruttela, perché lo schema che sta venendo fuori è veramente qualcosa di devastante. Io ritengo che non sia Mineo, non sia un sottotitolo di Mafia Capitale, non c'entra nulla, cioè, quindi a mio avviso ha solo questo elemento in comune che si chiama Odeven. Però tutti gli atti, dicevo, della mia gestione sono atti di assoluta linearità, di assoluta trasparenza. Sul 2014, su cui è intervenuto Cantone, chiaro, capo dell'anticorruzione. Senta, ma lei sarà interrogato, come intende muoversi adesso? Guardi, no, io pretendo di essere sentito e che possa chiarire nel più breve tempo possibile. Lei immagini una persona che vive di immagine pubblica, cioè quindi una personalità politica, un uomo di governo, come può pensare che si trascini a lungo un'indagine? Quindi io chiedo umilmente alla procura, che ha fatto un ottimo lavoro, che nel più breve tempo possibile si possa chiarire, mi possa dare l'occasione di poter chiarire la mia posizione e quindi poi fare le risultanze che ritiene più idonee. Io lo auguro allora, onorevole Castiglione. La ringrazio. Grazie, buona grazie serata. A voi, grazie. Quindi c'è una settimana vivace tra l'esito delle elezioni regionali, con poi tutta insomma la polemica soprattutto dentro il PD, le tensioni, e poi di nuovo questo atto secondo di Mafia Capitale. Ne vorrei parlare con Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Il quale avrà l'arduo compito di fare, diciamo così, in un commento lapidario, dare una tua opinione sul risultato di queste elezioni e poi anche una considerazione naturalmente su questa vicenda tremenda, sì, di Mafia Capitale. Lapidario, il commento, sì, sulle elezioni, che per Renzi è sicuramente stata una battuta d'arresto. Noi abbiamo commentato sul giornale che l'unico modo per uscire da questa battuta d'arresto è accelerare sulle riforme e far ripartire e aiutare, dare una spinta, perché il governo più di questo non può fare, perché poi la ripresa deve camminare sulle sue gambe, sulle gambe delle imprese, dei lavoratori, degli italiani, ma il governo può dare una spinta dando fiducia, facendo capire che andrà avanti, anzi accelererà sul fronte delle riforme. E l'unità interna, deve guardare l'unità interna o deve andare avanti così l'uomo solo? Deve sicuramente guardare l'unità interna, perché i numeri del partito sono quelli che sono, i numeri in Parlamento sono quelli che sono, ma deve avere anche la consapevolezza, e credo che Renzi ce l'abbia, che in questo momento nessuno si può permettere una crisi di governo, tantomeno il suo partito, tantomeno i componenti della minoranza del suo partito. Per cui io credo che Renzi ha un'arma da poter mettere sul tavolo e può andare deciso avanti sul suo programma e sulle sue riforme, sapendo che poi l'opposizione interna può spingersi nella sua opposizione, ma fino a un certo punto, perché poi credo nessuno abbia vantaggio nel far cadere questo governo. Per cui forse su questa base Renzi ha la possibilità di andare avanti con decisione sul suo programma. Fabrizio, senti, invece su Mafia Capitale, tu guarda dove vai, perché mi sa che sei in mezzo al traffico, mi raccomando, vorrei averti sulla coscienza. No, cammino ecco. Sul marciapiede, no, non c'è problema. Su Mafia Capitale purtroppo era annunciata questa seconda tranche di questa inchiesta e tutti sappiamo che probabilmente non finisce nemmeno ancora qui. C'è un malaffare intorno alla capitale, ma da questa seconda tranche emerge che non è solo limitato alla capitale, ma è proprio la gestione degli appalti di questi centri degli immigrati, e questa è veramente la cosa più insopportabile, perché insomma vediamo davvero degli affaristi che facevano i loro affari sulla pelle degli immigrati, su un'emergenza che è quella degli immigrati e quella che tutti gli italiani stanno vivendo in maniera molto diretta. Speriamo soltanto insomma che queste vicende arrivino rapidamente a conclusione, come diceva il sottosegretario Castiglione, perché poi non ha interesse di nessuno che queste inchieste si protraggano spargendo veleni e rischiando poi di impattare anche appunto sulla politica nazionale, sulla tenuta dei governi insomma. Senti, Marino che deve fare per chiudere proprio in pochi secondi, Fabrizio? Marino deve fare il massimo della chiarezza, non mi sembra che c'è un livello di polemica contro Marino eccessiva. Marino chiaramente si è ritrovato un sistema che ha ereditato dal passato, deve intervenire anche lui con decisione e su chi intorno a lui non dà tutte le garanzie del caso. Grazie Fabrizio Forché, buona passeggiata. Grazie. Ciao, ciao Fabrizio. Ciao. Ciao. E adesso brevissimamente alcuni vostri messaggi. Allora c'è un messaggio al 349-238-6666. In pubblico gli industriali sono sempre schierati col governo dell'epoca, nel segreto dell'urna è un altro discorso, dice, si firma Don Abbondio. Poi ringrazio Giovanni da Torre del Greco. Un altro messaggio, questa è una freddura di Daniele, che dice, dopo aver sentito da più parti che in Italia finalmente si torna a crescere, l'ex ministro di Forza Italia Brunetta, con estrema fiducia e slancio, si è prontamente misurato. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci sempre insieme, Roberto Giordano con voi, naturalmente sino alle 22, anche con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, dove inviare gli sms. Se avete dimenticato le notizie principali oppure se avete acceso in questo momento, ricapitoliamole. Mafia Capitale, nel nuovo capitolo dell'inchiesta è indagato anche il sottosegretario all'agricoltura Castiglione, che è stato poco fa qui ospite Effetto Notte, ha detto che desidera essere interrogato quanto prima per chiarire la sua posizione. Mattarella all'Expo, la lotta alla corruzione, dice, deve essere severa. Grecia, i timori sul rimborso di Atene al Fondo Monetario Internazionale affondano le borse. Il presidente del Parlamento Europeo Schulz commenta, ne ho piene le scatole. Milan è ufficiale, Berlusconi cede il 48% della squadra al thailandese Mr. Bima, resta presidente. I giovani di Confindustria al governo, dice, chiedono, coinvolgeteci per creare sviluppo, non solo per le tasse. In Iraq è morto in carcere Tareq Aziz, fu il numero due di Saddam Hussein, ministro di religione cristiana, fu condannato per crimini contro l'umanità. La vicenda di Malala, il Pakistan rimette in libertà 8 dei 10 aggressori della giovanissima studentessa divenuta premio Nobel, e la stampa britannica svela, la condanna fu finta, in realtà furono assolti. Roma, incidente nella metro, scontro tra due treni, 21 feriti ed è stato appurato, è stato un errore umano. Per il calcio, vigilia di Champions, di cui parleremo più tardi. Ora invece soffermiamoci sul rapporto Istat che riguarda la violenza sulle donne in Italia. Si registra un calo così in linea generale, così registra l'Istat, ma non si intacca, scrive, lo zoccolo duro della violenza nelle sue forme più gravi, stupri e tentati stupri, come pure le violenze fisiche da parte di partner, ex partner, eccetera. Aumenta la gravità delle violenze subite e cresce anche contemporaneamente la consapevolezza da parte delle donne delle violenze, del fatto di volerne parlare, anche di allontanarsi dagli uomini che spesso appunto i partner agiscono verso di loro in modo violento, anche se spesso sapete come finiscono queste vicende. Questo emerge dal rapporto che si intitola La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, che è stato presentato oggi dalla consigliera del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giovanna Martelli, che era ospite anche ieri qui Effetto Notte, in materia di pari opportunità, e dall'Istat. Pensate, secondo questo rapporto, che la violenza sulle donne è sempre un fenomeno molto ampio, molto grave, molto diffuso, coinvolge il 31% delle italiane, quindi una donna su tre tra i 16 e i 70 anni, quindi quasi 7 milioni di donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Ne parliamo con Barbara Spinelli. Buonasera. Barbara, buonasera a tutte. Avvocata, da anni si occupa di tematiche legate alla violenza sulle donne, è stata consulente anche per organismi internazionali, autrice del libro Femminicidio, dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale. Barbara, esiste anche un piano nazionale, no, da tempo, per prevenire la violenza sulle donne? Funziona, non funziona? Andrebbe implementato? Ma in realtà questo piano nazionale, il primo in Italia è stato nel 2011 e non sono stati monitorati gli impatti che ha avuto e soprattutto non sono state finanziate tutte le azioni. Già. Il nuovo piano risale al 2015 e purtroppo non è stato elaborato sulla base delle indicazioni che si avevano dato le Nazioni Unite al nostro paese nelle raccomandazioni del 2011 del Comitato Sido contro la discriminazione sulle donne e del 2012 della Rettrice Speciale dell'ONU contro la violenza sulle donne. Quindi ci troviamo con un piano che è più una dichiarazione di intenti, però non è davvero efficace nel riuscire a finanziare delle azioni di prevenzione e di protezione delle donne che sono fondamentali per dare alle donne la fiducia necessaria a denunciare. Anche perché bisogna dire che si sente sempre più spesso, allora abbiamo parlato più volte del fatto che vi sono femminicidi in Italia quasi ogni 2 giorni, 3 giorni, e abbiamo detto più volte che sono donne che magari avevano denunciato già varie volte, no? Il partner, l'ex partner, spesso succede, i casi più frequenti, mi pare di capire ultimamente, sono quelli di donne che lasciano i compagni perché non ne possono più, e questi però non ne vogliono sapere, quindi stalking, persecuzione eccetera, finché arrivano all'azione definitiva, diciamo così. Però sembra che ci sia poi una storia di denunce, evidentemente non è ancora efficace questa modalità, Barbara Spinelli. Purtroppo la violenza nelle relazioni di intimità è un calvario che peggiora quando si decide di porre fine alla relazione. Circa il 40% dei femminicidi che avvengono ogni anno vengono commessi proprio nel momento in cui la donna decide di comunicare che in via definitiva vuole troncare una relazione. E purtroppo le donne che denunciano atti persecutori o violenze nel momento in cui iniziano una separazione, dal nostro sistema giudiziario vengono considerate non credibili, perché si pensa che sono tecniche per avere maggiori benefici finanziari in sede di separazione, oppure per accaparrarsi l'affido dei figli in via esclusiva. E quindi molto spesso la maggior parte di queste denunce che vengono presentate non viene tenuta seriamente in considerazione e non si riesce a valutare in maniera adeguata la protezione della donna. Questo anche perché manca, in particolare per quanto riguarda la fase investigativa di indagine, che riguarda quindi le procure, manca ancora in molte città italiane una sezione specializzata che si occupi con competenza e in maniera rapida di queste denunce. Barbara, è possibile, naturalmente c'è sempre enorme, preponderante la componente culturale, no? Basta ricordare che il delitto d'onore in Italia mi pare sia stato abrogato nel 1981, quindi stiamo parlando di ieri, non di epoca medievale, no? Assolutamente, ma poi anche se le leggi sono state modificate grazie alla lotta delle donne, purtroppo la mentalità patriarcale che era alla base di quelle leggi non è assolutamente cambiata, e questo lo vediamo dalla rappresentazione della donna che viene data dai media, nelle pubblicità o anche nei discorsi dei politici o nel linguaggio comune. C'è un lavoro culturale da fare, perché quella che viene definita anche un'educazione sentimentale, perché purtroppo ancora oggi si dà per scontato e per normale che le relazioni uomo-donna sentimentali debbano essere basate sul possesso, sul controllo, e molte giovani ragazzi purtroppo ancora oggi considerano normale subire delle limitazioni nella loro quotidianità da parte del proprio partner. In questo senso, Barbara Spinelli, vedevo sempre nel rapporto Istat che aumentano i casi di figli che assistono alle violenze, agli episodi di violenza sulla propria madre, e questo è particolarmente grave, oltre perché li traumatizza, li fa vivere male, anche perché poi c'è un fenomeno di trasmissione dei modelli comportamentali violenti, quindi i maschi che diventano violenti poi nei confronti delle proprie partner, e le donne che, come se tendessero a giustificare o comunque a subire passivamente quella nei propri confronti poi quando crescono, no? Sì, questo è un dato che purtroppo è stato accertato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. I bambini che assistono a violenza anche verbale, non solo fisica, di un genitore sull'altro, nel breve e nel lungo termine sviluppano dei disturbi di salute gravi, cioè un maggiore rischio anche di sviluppare disturbi del comportamento, vere e proprie malattie psichiatriche. E nonostante la legge sul femminicidio del 2013 abbia introdotto un aggravante per i maltrattamenti caratterizzati da violenza assistita, non c'è consapevolezza rispetto a questo, assolutamente. Quindi è un problema assolutamente grave, e che tra l'altro i pediatri potrebbero monitorare. quindi c'è anche un tentativo di coinvolgere i medici di base e i pediatri rispetto all'aiuto, al supporto delle donne che vogliono uscire dalla violenza, proprio spiegando loro il danno che può fare per un bambino, perché molto spesso l'idea di tenere unita la famiglia sopportando la violenza non tiene conto di questo aspetto. Questo è il quadro. Grazie Barbara Spinelli. Grazie, buona continuazione. Grazie a voi, buon proseguimento. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Mario Dauni le dice: la freddura di prima con la subbrunetta di Daniele al contrario ci fa capire perché l'Italia non potrà mai crescere. Con questa risposta vi ricordo molto brevemente le notizie più importanti. Abbiamo parlato dell'inchiesta Mafia Capitale, della nuova ondata, è stato indagato anche il sottosegretario Castiglione che era ospite qui, l'avete sentito, effetto notte. Poi Atene che affonda le borse europee perché ha rinviato il rimborso al Fondo Monetario Internazionale. Salvini che oggi era all'Assemblea dei Giovani Confindustriali a Santa Margherita Ligure, però è stato piuttosto gelo da parte degli imprenditori. Poi scontro tra treni nella metro a Roma, 21 i feriti, si è appurato che è stato un errore umano. Stamina, il sistema Stamina è stato bocciato dalla Cassazione, le motivazioni è pericoloso e non scientifico. Svolta per il Milan, a Mister B una quota poco sotto il 50%, la Juve è a Berlino e Allegri ci crede domani per la finale. Europa 24 notte. Parliamo del centro spaziale di Frascati, il centro ESRIN, che svolge l'attività di progettazione dei satelliti destinati all'osservazione della Terra. Nel corso degli ultimi tre decenni, oltre all'impiego per l'osservazione ottica, l'Unione Europea ha lanciato una serie di macchine orbitali che assicurano la raccolta di informazioni sui parametri che determinano i fenomeni di breve e lungo termine, condizionano l'economia e studiano le evoluzioni del clima. Il centro è diretto dal professor Volker Liebig. Osservare il pianeta dallo spazio, scoprirne le caratteristiche più nascoste e trarne indicazioni utili. È l'attività principale dell'ESRIN, l'Istituto Europeo per l'Osservazione della Terra, che per conto dell'Agenzia Spaziale Europea opera nella sede di Frascati. Il prossimo anno il centro festeggerà i 50 anni della propria attività di ricerca, come spiega il direttore Volker Liebig. Oggi facciamo tanto ricerca sul pianeta, ma anche per la gestione del pianeta, per esempio per la produzione del cibo, è molto importante avere i dati dello spazio. Abbiamo un programma scientifico nell'ESA, prepariamo la prossima missione che si chiama EOLUS. Il nome dice già che vogliamo misurare la direzione e la fortezza del vento del satellite, questo è qualcosa di nuovo. Abbiamo un altro programma, si chiama Copernicus. Per la prima volta Europa comincia di costruire un sistema completamente operazionale, non solo satelliti scientifici, ma per lunga durata, 25 anni e più. Direttore, cosa c'è da scoprire ancora osservando la Terra dallo spazio? Devo dire tutto. Di più che facciamo, di più abbiamo domande. Abbiamo già imparato tanto, ma il pianeta è molto complicato, la natura è molto complicata e così abbiamo bisogno di tante nuove cose. È l'italiana Simonetta Cheli, la responsabile dei programmi di osservazione della Terra. Un occhio diverso, una visione diversa di quello che è il nostro pianeta, visto dai satelliti, cambiamenti climatici, cambiamenti e l'evoluzione delle foreste, il tema dell'agricoltura che oggi è il tema dell'Expo qui a Milano, un importante strumento per gestione, prevenzione e quindi gestione di tematiche come quelle importanti legate all'ambiente e anche una visione di quella che è la bellezza del nostro pianeta. Un pianeta che è fragile, un pianeta che chiaramente ha i ghiacci che sono in fase di scioglimento, dei satelliti che vedono i poli e dei satelliti che vedono l'evoluzione delle foreste tropicali, dei satelliti che vedono anche le megalopoli, quindi l'evoluzione di quelle che sono le 30 città al mondo considerate megalopoli e il loro trend di crescita. Nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea, non solo per la ricerca ma anche per il volo, l'Italia offre il proprio importante contributo, come ricorda il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston. Il Corpo Spaziale Europeo contiene 4 astronauti italiani su un totale di 10, una decina, quindi la parte più importante del Corpo Spaziale Europeo. Il motivo è molto semplice: l'Italia, avendo realizzato quasi il 50% delle parti abitabili della zona della stazione spaziale spaziale internazionale, ha un rapporto diretto con la NASA oltre che con l'ESA per avere opportunità di volo, quindi di fatto noi possiamo far volare più volte gli astronauti rispetto ad altri paesi. Sono 6 gli astronauti del nostro paese che hanno volato nello spazio, da Franco Malerba nel 1992 a Samantha Cristoforetti. Il cui rientro sulla Terra è atteso tra pochi giorni. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. E colleghiamoci immediatamente con Berlino, dove c'è il nostro Dario Ricci che sta vivendo la vigilia della finale di domani. Dario. Eccomi Roberta, a tua disposizione, dimmi pure. Parlerai in tedesco, Dario, cosa ci racconti? Che Allegri mi sembra abbastanza sicuro di sé, certo la tensione c'è, no? Assolutamente sì, la città è in festa per questa sfida. Domani capiremo chi oggi ha recitato, perché entrambi, sia i catalani che i bianconeri, sembrano molto sicuri, determinati, vogliosi di abbracciarla al cielo di Berlino questa coppa. Domani il Prato dell'Olympia Stadium ci dirà la verità. Sembra piuttosto carico anche Buffon, oggi mi sembra che abbia parlato con molta leggerezza anche dei figli, no? Sì, beh, c'è stato questo sifarietto simpatico, perché è stato chiesto sia a Bonucci che a Buffon che cosa gli avessero detto i loro figli prima di partire per Berlino. Beh, il figlio di Bonucci gli ha detto che avrebbe preferito fare una gita al mare col papà, e quindi rimandata per forza di cose a domenica o al più tardi lunedì. E addirittura Buffon ha confessato che i suoi due figli hanno in Messi e Neymar i loro giocatori preferiti. Aia. Proprio quei due che domani potrebbero mettere in seria difficoltà il Gigi nazionale, quindi insomma un piccolo grande dramma sportivo in famiglia. Il tifo contro, ritrovarselo dentro casa, non fa mai piacere, ecco, diciamo già così. Una serpe in sera. Grazie Dario Ricci, domani aggiornerà naturalmente qui a Radio 24 da Berlino. Ciao Dario, buona partita. Ciao, auf Wiedersehen. Mentre che partita si gioca il nostro Paolo Corazon di 3B Meteo, che è tornato dopo aver inseguito il tornado in Stati Uniti. Paolo, buonasera Roberta. Sì, adesso siamo in pianura padana, situazione diversa, ma non ti nascondi, sono anche contento di essere tornato poi con il tornado in saccoccia, come diciamo a Milano. Beh, guarda, per quanto riguarda invece il tempo dalle nostre parti, buone notizie, nel senso che sarà un weekend tipicamente estivo. Ti segnalo solo qualche temporale nelle ore pomeridiane nelle zone interne del sud e sulle Alpi. Però per chi soffre il caldo, weekend difficile, perché toccheremo nuovamente i 34-35 gradi. Dovremo aspettare mercoledì perché l'aria finalmente inizia a rinfrescarsi un po'. Grazie Paolo Corazon, buon tempo ciao, a te. Ciao Paolo. Direi che possiamo sentirci tra poco alle 22.